Dario Ricci. È possibile dire che non si ha paura, soprattutto perché questo è un nemico invisibile, quindi anche quando entri nei reparti di malattia infettiva sai che il nemico è nell'aria, nelle cose che tocchi. Visti siamo abituati a giocare soffrendo e anche durante questa emergenza sicuramente dobbiamo fare qualcosa. La meta è uscire dall'emergenza, cercare di salvare più persone possibile, di tutelare quelle che sono appunto più fragili. Bisogna cercare di trovare qualcuno che abbia bisogno di noi, perché ci sono tante piccole cose che si possono fare anche in sicurezza che possono aiutare le persone in questo periodo. The Greater Game, il gioco, la partita più grande. Così nel mondo anglosassone venne definita la Prima Guerra Mondiale, con una metafora sportiva ancor più calzante quando in quelle trincee cominciarono ad affondare i loro scarponi e spesso, troppo spesso, ahimè, a perdere le loro vite i campioni dello sport, in particolare del calcio. Ebbene, anche oggi che l'umanità sta affrontando un nemico insidioso e invisibile, il coronavirus, ci sono molti campioni dello sport che sono scesi in campo, cambiando però il loro campo di destinazione, appunto, da quello di gioco a quello in cui tutta l'umanità sta giocando la sua sfida più importante. E allora, in pochi giorni si è passati dalle piste di atletica o dai campi di calcio alle corsie di ospedale, o magari a prestare aiuto in un'associazione di volontariato per supportare chi in questo momento è più fragile e isolato. È la scelta che ha fatto il primo ospite di oggi a Olimpia, che è passato dalla maglia azzurra del rugby e del prestigioso torneo delle Sei Nazioni alla guida di un'ambulanza in un'associazione di volontariato nella zona di Parma. Maxime Mbanda, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie mille a voi. 27 anni, di origine congolese, nato a Roma ma presto trasferitosi a Milano, Mbanda, lo ricordiamo per i nostri ascoltatori, è flanker della Nazionale Azzurra di rugby e delle Zebre di Parma, oltre che studente di scienze motorie. Allora, Maxime, ci eravamo lasciati a febbraio con un Sei Nazioni ancora una volta molto sofferto per la nostra nazionale. Sì, diciamo che i ragazzi comunque si sono dati da fare, hanno cercato di dare il loro massimo, però i risultati non erano quelli che speravamo sicuramente. E dopo appunto tre partite ci siamo ritrovati a dover affrontare un'altra emergenza, quindi tutto un altro campo e stiamo cercando di dare il massimo anche qui. Una sorta di maledizione per gli azzurri, Maxime. Ai mondiali in Giappone lo scorso ottobre la sfida con la Nuova Zelanda saltò causa uragano. Ora la battaglia col coronavirus che ci impedisce di confrontarci ancora una volta col gota della palla ovale mondiale. Sembra un caso, però davvero è una coincidenza che però adesso va affrontata su un altro livello. Noi stiamo cercando di pensare 24 ore su 24 a aiutare le persone qui nella nostra comunità, a cercare di trovare una soluzione per risolvere tanti piccoli problemi, tanti piccoli interventi che si possono fare appunto per migliorare la vita di tutti in questo periodo di grandi sacrifici come appunto lo stare in quarantena. Ecco, com'è nata la tua scelta di passare dal campo di gioco alla lotta in prima linea contro la pandemia? Guarda, mi sono ritrovato una volta che ci hanno appunto sospeso partite, allenamenti, mi sono ritrovato con le mani in mano e mi sono chiesto cosa potessi fare nonostante non avessi le competenze sanitarie in merito, come una laurea in medicina, in infermieristica o cose del genere, come appunto potessi aiutare la mia comunità. Ho fatto una ricerca su internet e ho trovato questo articolo che parlava appunto di una collaborazione tra il comune di Parma e questa SEIS Croce Gialla, che appunto si sarebbe occupata di provvedere a fornire alimenti e farmaci agli anziani, alla quale appunto era stato dato il divieto di uscire di casa, ma soprattutto per cercare di tutelare le loro vite e la loro sicurezza. Quindi mi sono ritrovato il primo giorno appunto a portare scatoloni pesanti di alimenti e farmaci dalle varie farmacie comunali, ospedaliere, direttamente a casa delle persone qui a domicilio, e il secondo giorno invece c'era bisogno di personale e mi hanno detto vestiti, che entra- pratica è una vestizione particolare appunto per cercare di tutelarsi il più possibile, e che abbiamo bisogno di che ci aiuti a trasportare i pazienti positivi da un ospedale a un altro, perché in pratica qui nel territorio di Parma ci sono 3 ospedali pubblici principali, uno in città, uno a Fidenza che è una mezz'oretta di distanza e uno sulle montagne a Borgotaro che è un'oretta di distanza, e in pratica si tratta di trasferire pazienti da un ospedale dove c'è una maggiore densità di persone che hanno bisogno di cure in quel momento a uno che magari è sempre virgolettato più libero, quindi una sorta di cercare un equilibrio per cercare di far lavorare medici, infermieri e OSS in una condizione di meno stress, un po' più tranquillità, e tutto sempre virgolettato, perché la tranquillità in questo periodo è un po' un ossimoro, e quindi il nostro lavoro nel piccolo è cercare di aiutare in un modo o nell'altro le persone a salvare altre persone. Un cambiamento radicale, immagino, della tua quotidianità. Come si svolge adesso la tua giornata tipo? In pratica la mattina verso le 8, massimo 8 e mezzo, sono lì nella sede della Croce Gialla. Abbiamo una specie di briefing, quindi una riunione dove ci spiegano, ci dicono i vari servizi che da una centrale operativa sono stati già assegnati alle varie croci già la sera prima. Quindi ci sono squadre appunto che sono designate per trasportare pazienti positivi, squadre per consegnare farmaci e alimenti, e squadre comunque che devono continuare a fare i servizi ordinari, quindi i pazienti non positivi che comunque devono essere assistiti e devono avere bisogno comunque di operatori che li trasferiscano, che li portino a fare vari esami da strutture che appunto sono convenzionate. Quindi arrivo lì e ti dico, i primi 10 giorni ho fatto turni anche di 12-13 ore, perché c'era una richiesta di trasferimenti bella piena. Adesso pian piano sembra, e se ti dico sembra perché dobbiamo aspettare troppo settimane per poterlo dire, sembrerebbe che questo trend stia un attimo diminuendo, però ogni giorno è un giorno diverso e bisogna soltanto sperare che questa emergenza passi il prima possibile. Immagino molto duro, difficile, il primo incontro col virus. Il primo incontro, diciamo che sicuramente prima di entrare la prima volta in un reparto di malattie infettive avevo un po' di timore, perché giustamente questo è un nemico invisibile che non puoi appunto vedere, ma quando entri appunto in un reparto sai che è presente, può essere presente nell'aria, in qualsiasi cosa tu tocchi, quindi devi sicuramente cercare di disinfettarti il più possibile prima di entrare, dopo che sei uscito. E il primo paziente, diciamo che è stato un battesimo di fuoco, perché dai suoi racconti mi ha indirizzato per bene in quello che mi sarei appunto ritrovato, e diciamo sì che è stato un battesimo bello, bello impegnativo, che però mi ha dato appunto lo spunto per poter affrontare gli altri trasferimenti con un po' più di sicurezza in quello che andavo a fare, e appunto pensando che sto comunque nel mio piccolo facendo una cosa positiva che può aiutare una persona a sopravvivere, altre a essere salvate, mi fa assolutamente andare avanti senza pensare. E c'è ancora spazio per il rugby ora nelle tue giornate, Maxim? No, assolutamente, abbiamo compiti da svolgere anche noi, i nostri allenatori ci mandano ogni 3-4 giorni una partita da vedere, una partita di livello internazionale passata da vedere, analizzare e da appunto rispondere ad alcune domande che loro fanno a volte diversamente. Ma poi anche la mia forma fisica devo comunque tenerla, quindi la mattina presto prima di andare o la sera anche se sono stanco quando torno, devo assolutamente trovare il tempo per allenarmi. Mi sono fatto addirittura la settimana scorsa installare una barra per fare trazioni nel garage, è una piccoletta, però da lì si possono fare tanti esercizi che possono cercare di farti tenere una forma degna di essere chiamata così. E no, sì, assolutamente, il rugby è comunque la mia vita, la mia quotidianità e non posso dimenticarlo. Riesci oggi a immaginarti il giorno in cui tornerai in campo, in cui ritroverai compagni e avversari? Sicuramente sarà come essere al primo giorno di scuola, perché dopo tutto questo tempo, che sembra poco, ma alla fine comunque per uno sportivo, ma comunque per tutti quelli che stanno a casa, sarà tanto, cioè sarà un'enormità di tempo. E diciamo che penso che tutte le persone, una volta che avranno la possibilità di tornare a uscire di casa tranquillamente senza avere alcun veto, saranno pronti per festeggiare, ma sicuramente tutti dovremo festeggiare per quanto possibile. Ovviamente ci sono persone che hanno perso cari in questo periodo, però dobbiamo cercare di stare tutti uniti, prenderci cura di chi in questo periodo sta soffrendo, ma alla fine per forza dovremo festeggiare, perché diciamo che queste norme che sono state date dal governo hanno salvato molte persone e quindi dovremmo essere contenti alla fine. Maxime Bandà, ti auguro davvero di poter festeggiare presto e noi insieme a te nel modo più bello, che ne so, magari una bella meta a Twickenham, è il tempio del rugby mondiale contro l'Inghilterra, che ne dici? Ah, guarda, sicuramente sarebbe un bellissimo sogno, spero di poter esaudire questa promessa che nel tuo piccolo mi ha fatto. Però volevo anche aggiungere un'altra cosa, un messaggio che sto mandando in questo periodo, soprattutto a giovani appunto che non vivono con anziani, bambini o persone immunodepresse. Se si annoiano così tanto, se vi annoiate così tanto, l'unica cosa che riuscite a fare ultimamente è appunto lamentarvi sui social network, di magari cercare su internet, fare qualche ricerca, qualche chiamata, perché sicuramente ci sono un sacco di persone, di croci, l'assistenza pubblica, che possono avere bisogno di volontari in questo momento, dove dobbiamo essere tutti uniti, tutti darci da fare. E ci sono tante piccole cose, anche in totale sicurezza, anche da casa, senza uscire magari se una persona ha paura, che si possono fare per aiutare in questo momento di difficoltà. Maxime Bandà, grazie per quello che stai facendo, per averlo raccontato qui oggi e per essere stato ospite a Olimpia, la città dello sport. Grazie mille a voi. Ora una breve pausa, poi ancora insieme qui a Olimpia, la città dello sport. Olimpia. Proprio venerdì, che molti comuni del territorio avevano disposto in misura precauzionale la chiusura di centri anziani e sociali, 16 persone si sono infettate in una bocciofila dell'Imolese. Un incidente che ha fatto saltare sulla sedia il commissario regionale alla sanità Sergio Venturi. Non possiamo permetterci situazioni come questa, dice. Esorto gli anziani a ritirarsi per qualche settimana, consentendoci di rallentare l'andamento dell'infezione. Cosa abbastanza drammatica per quello che riguarda l'aspetto psicologico della gente, perché stanno tutti sul chi vive e con la paura che ci possa essere qualcosa. È quello che le federazioni hanno fatto, hanno fatto veramente bene, perché il bloccare le competizioni e rispettivamente le palestre e i bocciodromi è stata una mossa più che giusta. Voci che arrivano dal mondo delle bocce, dall'Emilia, dalla Lombardia. Sì, perché le bocce in Italia sono sinonimo di aggregazione, amicizia, sport tra le generazioni. 90.000 tesserati, di cui poco più di 40.000 agonisti, 1.600 società affiliate alla Federbocce. Tutti, chi più chi meno, siamo stati giocatori di bocce. Alcuni lo sono sino al professionismo, altri i più fino alla terza età, quell'età oggi falcidiata dal coronavirus. E allora, del tributo che questa splendida disciplina, pensate, ne sono state trovate tracce risalenti al 7000 a.C., parliamo oggi a Olimpia col presidente della Federboccia italiana, Marco Giunio De Sanctis. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie a lei. Presidente, pesante tributo, dicevamo, quello che anche il vostro mondo sta pagando la pandemia. Lo sta pagando perché abbiamo la prevalenza dei giocatori, diciamo dei soci che sono sportivi, agonistici, promozionali di tutti i tipi, perché Bocce ha tante stratificazioni e tanti livelli. C'è l'altissimo livello che sono tutti giovani, questo è ovvio, come tutti gli sport, ma soprattutto il nostro è uno sport agonistico, parlo del volo, della navetta e staffetta, mentre lo sport di base è rappresentato da tutti, quasi tutti, non dico quasi tutti, ma la gran parte da over 50, quindi sessantenni, addirittura anche ottantenni che ancora si dilettano nelle gare di più, diciamo, più bassa categoria, per cui stiamo pagando quello che naturalmente tanti tesserati. È ovvio che ho notizie di scomparsa di persone che molti di questi li conoscevo e con alcuni addirittura ero proprio amico, quindi veramente un dolore personale, ma un dolore che sta rattristando tutta la nostra popolazione boccistica. Inoltre, cuore del contagio in Italia proprio quelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che sono anche il cuore dell'attività bocciofila nel nostro paese. Eh sì, sono, credo veramente, parliamo del 70%, quasi l'80%. Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna veramente fanno quasi l'80% della nostra popolazione boccistica. E tra l'altro hanno tantissimi affiliati e tesserati in ogni angolo, per cui sono poi casi così naturalmente notori, noti, perché ci sono stati 3-4 bocciofili in cui appunto sono stati chiusi per prime rispetto alle altre, perché poi tutti hanno chiuso meno male, intelligentemente, proprio perché c'è stato un contagio molto forte in alcune di queste. Però parlo di Imola, parlo nel Bresciano, parlo nel Lodigiano, e naturalmente poi tra questi contagiati ci sono stati anche diversi decessi, e questo un po' ringraziando Dio, in alcune aree molto di meno, tipo la Toscana, tipo il sud, però per esempio spesso in Calabria abbiamo perso 2 presidenti di società, però naturalmente ce lo dovevamo aspettare, perché ripeto, la popolazione è quella che è la meno, è la più debole, e quindi le Bocce in questo sono penalizzate, sono state veramente colpite, e spero che si riesca a contenere questa, sia il virus che, ma insomma, questo tipo di penalizzazione e di perdite che stiamo subendo, non dico tutti i giorni, ma veramente molto molto spesso. A metterci lo zampino, poi, manco a farlo apposta, pure il calendario. Nelle settimane scorse, ad esempio, anche un incrocio tra le bocciofile della Bresciana Orzinuovi e di Codogno. Certo, anche questo sì, ma vede, quello che stiamo vivendo era imprevedibile, o perlomeno se c'era qualcuno che l'avesse potuto prevedere, non ce l'ha detto, sarebbe una cosa gravissima, perché io credo che nessuno, ma tutto il mondo sta ragionando così, potesse prevedere un evento così eccezionale. Questo è un evento, veramente una calamità incredibile, di proporzioni globali, proprio mondiali, e lo stiamo vedendo. Per cui oggi fare così, a posteriori, fare le critiche è sempre facile. Naturalmente l'unica critica che si può fare è che sicuramente il Servizio Sanitario Nazionale adesso ha la possibilità per poter riconsiderare tante cose, per poter essere rilanciato come merita e come deve, perché la salute è al primo posto di tutti gli italiani, di tutto il mondo. Facevamo riferimento, presidente De Sanctis, ad alcuni giocatori scomparsi in queste settimane, ce ne può ricordare qualcuno? Ma guardi, Mirandola ci ho pure giocato, Giovanni Mirandola era, a parte, un signore in campo, uno splendido giocatore, io parlerei di lui in rappresentanza degli altri, anche un altro, Leonardo da Vinci, un bel giocatore che naturalmente purtroppo Mariani non c'è più, ed è un dolore insomma per chi li ha conosciuti. Poi ci sono tanti che sono ex giocatori, perché poi naturalmente parliamo di persone che hanno una certa età, ma hanno avuto anche un passato glorioso. Il tecnico Negraus di Biella, il tecnico è anche stato anche lui un ottimo giocatore, per cui sono tanti casi. Abbiamo le 2 campionesse del mondo, una di queste è Caterina Venturini, tutta la famiglia Venturini è contagiata, speriamo le ragazze appunto stiano in fase di convalescenza, e parlo di convalescenza positiva, perché una è campionessa del mondo e Caterina doveva entrare nel gruppo azzurro, spero che entrerà il prima possibile quando finirà tutta questa emergenza, nel gruppo delle fiamme azzurre insieme a Matteo Mana. Quindi stiamo parlando proprio di campionissimi, i giovani, per cui ha colpito i giovani, figuriamoci a una certa età. D'altra parte, la vostra disciplina è sinonimo di aggregazione, stare insieme, convivialità, in ogni parte d'Italia. Ma guardi, consideri che al di là di aver praticato tutte le bocce, perché le bocce è insito nell'uomo, si tiravano prima i sassi, poi le piastrelle, ma parliamo degli antichi, gli etruschi, fino ai giorni nostri. E il discorso dell'aggregazione è fondamentale. Io stesso ho passato tutta la mia vita ad andare presso le bocciofile a fare la partita con lo stesso accanimento e con lo stesso gusto di quando andavo in nazionale o facevo le gare di alto livello, e poi c'era la cena, la convivialità di questo sport straordinario che unisce tutti, poveri, ricchi, giovani, anziani, donne, disabili, è una cosa straordinaria. Quindi manca proprio questo, la chiusura delle bocciofile è un danno enorme per le bocciofile stesse dal punto di vista economico, tant'è che sono tra quelle federazioni che ha sollecitato sia il CONI che il governo per un ristoro dei danni, per non solo per le manifestazioni non svolte, ma proprio per la chiusura dei punti di ristoro, delle gestioni del bar ristorante all'interno, dove vi assicuro che soprattutto io sono romano, soprattutto un periodo precedente, quando volevi andare a mangiare bene, andavi presso le bocciofile, guardi, vi assicuro. Quindi diciamo che è un danno non soltanto sociale, ma economico, che veramente fa male, colpisce, perché sono le cellule vitali dell'integrazione e dell'aggregazione. Aspetto paradossale, e qui torniamo per qualche attimo a parlare di sport, Presidente, disciplina popolarissima, ma alle Olimpiadi ancora non ci siete. Perché? Io le dico soltanto che ci sono sport che derivano dalle bocce, faccio l'esempio del curling senza nulla toglierlo, sono le bocce sul ghiaccio che stanno alle Olimpiadi e Paralimpiadi, quindi qualcosa non va, perché è uno sport, ripeto, che ha tutte le componenti non solo sociali e promozionali ma agonistiche di alto livello, perché ci sono delle specialità altamente agonistiche che puoi praticare massimo fino a 35-36 anni, per quanto è difficile, perché è una sorta di atletica, quando lanci la boccia corri e devi colpire più bocce possibile in 5 minuti di tempo. E per cui che le devo dire? Io ci speravo per Parigi alla pétanque, che è uno sport nazionale, non ci siamo riusciti, anche perché a livello internazionale abbiamo molte divisioni, non abbiamo un'idea comune, io sto cercando appunto di avere un organismo unitario, anziché quattro organismi in base alle varie specialità. È un peccato grande, sì, perché le bocce alle Olimpiadi sarebbe veramente una federazione completamente diversa. Per cui che le devo dire? Io lo spero, me lo auguro, non sarà facile, però noi siamo una federazione olimpica perché andiamo alle Paralimpiadi, quindi questo è un inciso molto importante. Noi con la boccia siamo nel programma dei Giochi Paralimpici. Ha ben detto, Presidente, al singolare con la boccia, cioè siete una delle discipline portanti del programma paralimpico. È una delle disabilità più gravi. È la più affascinante da questo punto di vista, perché ci sono atleti che non riescono neanche a compiere il gesto, lo devono fare con il supporto del tecnico girato di spalle rispetto al campo che si gioca, che diciamo è dispiegato in palestra, e l'atleta però la boccia la lancia lui, perché la sua forza del pensiero. Questi sono i gravissimi, questi sono i meno gravi che lanciano la boccia, e quindi è per categorie molto gravi, e quindi dà una ragione di vita pazzesca a queste persone. E soprattutto è un gioco per tutti, neanche facile, perché si gioca per i più gravi con uno scivolo, e questo scivolo viene inclinato in relazione a quello che decide appunto l'atleta, e in base all'inclinazione la boccia scorre più o scorre meno. Presidente, le chiedo un'ultima cosa: quando tutto questo sarà finito, come se la immagina la ripresa dell'attività? L'organizzazione prima di riprendere tutto di un evento promozionale, cioè il presidente nostro Vittino lo chiama la gara dell'abbraccio, virtualmente, ma è una cosa molto bella, cioè riprendere facendo veramente qualcosa per tutto il movimento, un abbraccio virtuale che poi possa trasformarsi in un abbraccio concreto, proprio per capire e per far comprendere che adesso dobbiamo essere ancora più uniti, dobbiamo essere ancora più collaborativi, ma questo tutti, non soltanto nelle bocce in Italia ma nel mondo, perché questi sono eventi che non possono non far capire che qualcosa non è andato bene finora, e quindi dobbiamo cambiare, soprattutto verso la direzione del sociale e dei grandi valori che appartengono all'uomo. Marco Giulio De Sanctis, presidente della Federazione Italiana Bocce, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a lei. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.